stasera parto, volo in alto e vado finché posso. Arriva il cosmo e ti riporterò a un mondo più grosso. Vado a dormire tra le stelle e tutti gli astri. Salutami dai fondi bassi, spero un ricordo ti basti. Ricordami per i miei pregi, non i miei difetti. Ricordami perché non sono mai ciò che ti aspetti. Forse un giorno capirai tutti i miei aspetti. Non ho accettato mai un no, stata scelta dai pro che credono ai pro prima di vedere i contro. E in fondo ho solo risposto per il proprio conto. Ho creato tutto un mondo su da capo e non ho mai accettato un fidanzato che mi fa da capo. Lascio i miei pensieri sui bicchieri, voi siete la mia festa. Brindo a voi e a questa vita magnifica orchestra. Senza rimpianti andate avanti, lasciatemi un pensiero per chi sono e per chi ero. Sto per toccare il cielo. Segna questo nome, ricordati di me. Sono una su milione, una su milione. Rose sul mio palco, ricordati di me come nessun altro. Una su milione, oh, sono una su milione, sono una su milione. Cerca dove vuoi, non le trovi come me. Prima o poi vedrai perché, senza me non sarai mai un re. Lascio questo mondo nello sfondo a buon rendere. Cerco un universo diverso con nuove regole. Meglio rimanere umili, non pensare ai limiti inutili. Scordare i pregi è da stupidi. Lasciami volare, io sto già in alta quota. La vita è un aereo, non mi serve alcun pilota. E se chiedono di me, ho già il bastone e la carota. La storia senza me, una bottiglia mezza vuota. Come l'opera al teatro, è una nota che ti stona. Trovi un'altra prima donna, ma qualcosa non funziona. Quindi brucio tutti i ponti tra me e questo mare di mare. Chi m'ha voluto fermare nascondendo le scale? E forse solo quando andrò al dirai che ero una speciale. Un bacio solo a chi ha saputo dare. Vado. Segna questo nome, segna questo nome. Ricordati di me, sono una su milione. Una su milione. Stasera parto, rose sul mio palco. Ricordati di me come nessun altro. Una su milione, oh, sono una su milione, sono una su milione. Segna questo nome, segna questo nome. Ricordati di me, sono una su milione. Una su milione, oh, sono una su milione come. E se stasera parto, rose sul mio palco. Ricordati di me come nessun altro. Una su milione, oh.